È un ritrovamento fondamentale per ricostruire la storia della città etrusca, perché è composto da un grande doglio che fu trovato pieno di oggetti metallici, sono 14.841 oggetti per un peso complessivo di 1.418 kg, che fu rinvenuto, interrato, nei pressi della Basilica di San Francesco. L'autore del ritrovamento è Antonio Zannoni, che nel 1877 era l'ingegnere capo del municipio di Bologna e che stava quindi dirigendo i lavori di ristrutturazione della rete fognaria in quella zona. Fu un ritrovamento casuale che destò immediatamente l'interesse sia della popolazione bolognese che venne a conoscenza del ritrovamento, perché la notizia fu data subito, fu comunicata immediatamente alla stampa, e sia soprattutto fu il mondo scientifico che cominciò a dibattere sul significato da dare a questo rinvenimento. Quindi ci fu chi lo interpretò come una stipe votiva, chi invece vi riconobbe un deposito premonetale. Invece Zannoni, seguito da molti altri studiosi dell'epoca, ritenne di riconoscere in questo deposito il deposito di una fonderia occultato probabilmente in un momento di emergenza agli inizi del VII secolo avanti Cristo, e questa sua interpretazione si basò sull'analisi degli oggetti che lo componevano. Sono presenti infatti moltissimi pani di metallo, quindi la materia grezza, e molti oggetti sono frantumati e o comunque mal riusciti, e quindi sono interpretati come materiali da destinare alla rifusione. Questa è l'ipotesi tuttora più accreditata, che sembra trovare conferma anche nelle analisi che sono state condotte, analisi archeometallurgiche che sono state condotte negli anni 90 del secolo scorso, e che sembrano proprio dimostrare che nell'atelier di San Francesco si svolgevano almeno le attività preliminari alla fusione, alla realizzazione degli oggetti da rimettere poi sul mercato. Con questo nuovo allestimento abbiamo cercato di valorizzare questo complesso composto, come dicevo, da migliaia di oggetti, migliorarne ovviamente la fruizione da parte del pubblico, senza però alterare la struttura della sala che lo accoglie, nel senso che abbiamo mantenuto inalterato il fascino di questa sala che risale agli inizi del Novecento. Le vetrine sono ancora quelle del precedente allestimento, abbiamo semplicemente rinnovato l'arredo e in particolare le abbiamo illuminate, perché l'illuminazione era completamente assente nel precedente allestimento. Il nuovo allestimento ha comportato una selezione dei materiali, in precedenza erano esposti tutti, ora invece, proprio per aiutare alla comprensione di ogni singolo oggetto, abbiamo operato una selezione che comunque comporta la esposizione di migliaia e migliaia di oggetti che sono stati ripuliti, consolidati, quindi questo spiega anche perché sono stati necessari diversi anni per poter arrivare a questo momento straordinario di oggi.